Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è una bomba a orologeria della quale non siamo mai abbastanza consapevoli, una bomba demografica. La popolazione anziana infatti continua e continuerà ad aumentare per molti anni a venire e con essa anche la domanda di prestazioni sanitarie. Di fronte a questo trend, o il sistema sanitario diventa più efficiente oppure è facile prevedere che verrà ridimensionato e che a curarsi saranno solo quelli che se lo potranno permettere. L'informatizzazione, dalla cartella clinica elettronica al pagamento del ticket online, dalla telemedicina alla cosiddetta mobile health, è probabilmente l'arma più affilata che abbiamo a disposizione in questo momento per rendere più sostenibile il sistema sanitario. Ma a che punto siamo? Ne parliamo con Mariano Corso, responsabile dell'osservatorio ICT nella sanità del Politecnico di Milano. Buonasera Corso. Buonasera dottor Melis. Allora, si parla tanto di risparmiare nel mondo della sanità con tanto di spending review e si parla anche di informatizzare, ma insomma si agisce abbastanza male. Voi vedete addirittura più di un'emergenza in prospettiva che ci potrebbe arrivare addosso. Assolutamente. Si parla molto di spending review, ma non si tiene conto del fatto che già oggi abbiamo tagliato moltissimo. Abbiamo una spesa pro capite che è inferiore a quella della maggior parte dei paesi europei con cui dovremmo confrontarci, quindi meno di Spagna, Regno Unito, Francia, Germania. A fronte di questo invece abbiamo una qualità dei servizi che erano tradizionalmente buoni in Italia e che invece sono in caduta libera. Voi addirittura parlate di un rischio Schengen della salute quando avrebbe dovuto essere al limite un'opportunità per l'Italia. È proprio così. La mancata efficacia del nostro sistema ci porterà a curarci in altri paesi a spese del nostro sistema sanitario nazionale, quindi con perdita anche di posti di lavoro e quello che è già successo nelle regioni più povere italiane verso le regioni più ricche. Esatto. Ecco, e andando invece proprio al tema dell'informatizzazione, intanto la spesa in informatica del sistema sanitario com'è andata quest'anno? È andata malissimo, è oggi 1,17 miliardi, è scesa di un ulteriore meno 5% rispetto all'anno precedente, con delle punte ad esempio di riduzione del 26% sugli investimenti delle aziende sanitarie, quindi direi in caduta libera. Ecco, oltre all'aspetto quantitativo, anche dal punto di vista diciamo qualitativo delle scelte di priorità che sono state fatte, voi avete insomma qualcosa da ridire, mi pare di capire. Assolutamente, perché resta una forte frammentazione, si demanda tutto alle regioni e alle singole aziende sanitarie, non ci sono servizi condivisi se non pochissimi. In particolare il governo per esempio sta puntando molto sul fascicolo sanitario elettronico, no? Che è una specie così di libro virtuale nel quale c'è tutta la nostra storia sanitaria, no? Questo è un paradosso perché è un fatto importante, giusto, ma nel come si sta realizzando è profondamente sbagliato, perché si investe sul contenitore prima di aver pensato a quelli che sono i contenuti, quindi si rischia di creare un'autostrada nel deserto. E invece allora quali sarebbero le priorità? Da una parte c'è da investire sul spostamento della cura dall'ospedale al territorio, quindi esistono tutta una serie di tecnologie che facilitano l'assistenza domiciliare, la cosiddetta telemedicina. L'altro elemento è andare a efficientare le strutture attraverso la cartella clinica elettronica e la dematerializzazione dei documenti e dei processi. Dei referti, per esempio, per cominciare, no? Questo benedetto fascicolo sanitario sarà vuoto finché ogni volta che io vado al pronto soccorso, vado dal medico, mi faccio fare una prescrizione, questo è un foglio di carta invece che essere un documento informatico che va ad alimentare questo benedetto fascicolo. E poi anche cercare di lavorare in un'ottica di servizi digitali. Grandissimi benefici, soprattutto per i cittadini, ci potrebbero essere dai referti via web, piuttosto che non la prenotazione online. E infine anche il farmaco, quindi una gestione più accorta del farmaco grazie alle tecnologie digitali consentirebbe di eliminare tantissimi sprechi e di mettere sotto controllo quella che è la spesa delle regioni. Avete fatto una stima di quanto si potrebbe risparmiare senza sacrificare i servizi, migliorando l'efficienza con l'informatica? Assolutamente sì, parliamo di più di 14 miliardi, di cui 7 miliardi di risparmi per il sistema sanitario nazionale e altrettanto, se non qualcosa in più, per i cittadini in costi nascosti come possono essere la benzina, il parcheggio. Per andare a ritirare un referto o una ricetta. Grazie Mariano Corso. Grazie a lei, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Parliamo ancora di innovazione nel mondo della sanità. Buona serata.